Teatro Nazionale Italiano. E l'avventura sempre scende e sale, tosto avviene all'uomo bene e male. Scene e momenti dello spettacolo giullaresco nell'Italia del 2300. Adattamento radiofonico e regia di Giuseppe Venetucci. Un programma a cura di Anna Rosa Mavaracchio. Venite, polsel amorosi, Madonna, venite alla danza, mostrate la vostra allegranza. Venite, polsel amorosi, Madonna, venite alla danza, mostrate la vostra allegranza. Siccome sia bisognosi, venite, polsel a ballare, passando la rota a venire, la sent pariti allegrari, mostrate lo vostro salire. Mostrate lo vostro salire. Venite, polsel amorosi, Madonna, venite alla danza, mostrate la vostra allegranza, siccome musiti gioiosi. Venite, polsel a ballare, passando la nota a venire, la gente a vita allegrare, mostrate il vostro salire. Vantaggio, ardire e conoscenza, che do gli amici benevoglienza, e i nemici tegno in temenza. Ad ogni cosa do sentenza ed aggio senno e provvidenza in ciascun mestiere, che io so bene esser cavaliere e donzello e buon scudiere, mercatante, andare a fiere, cambiatore ed usuriere, e so pensare, so piatare e tavocare, chierico so e so cantare, fisica saccio e medicare, so di rampogne e so zollare, e buon sartore, orfo so e dipintore, di veggi ed arche facitore, mastro di pietre e muratore, bifolco so e lavoratore, e calzolaio so, barbiere e pilicciaio, pescatore so e mullaio, rigattiere e tavernaio, so pistore e so fornaio, buono e bello. So più che fabbro di martello, so far calcina con fornello, ben so biscazziere d'anello e ruffiano di bordello, e buon sensale, vendo biada e feno e sale, e so buono e speziale, misuro terra e faccio scale, modonatore e manovale, lignivestro, molto fo bene un canestro, selle e cinghie ed un capestro, so trare d'arco e di balestro, tignere in verde e tincilestro, e so di scacchi, conciare uccelli, affaitar bracchi, so far reti e gabbie e giacchi, cordon, stamigne e buon fresacchi, cacciar so e prender volpacchi e far monete, di storlomia so e di pianete, indovinar cose segrete, fodri meno di grande avete, ancora so, se voi volete, bel barattiere, con che faccio e ben orciuolo, so scudellaio e fo paiolo, so legger libro e libricciuolo ed insegnar ciascun figliolo di me vicini, so far campane e bombacini, navi e gualche e bommulini, tappeti e stuoie e pannilini ed a vettura torronzini, e so torniare, so leale e so furtare, spender saccio e guadagnare, per ariento istagno dare, e so i maconi incantare, e la tempesta, so far drappi della resta, e sommi solazzare a festa, ben adornar capelli in testa, di codico, saccio e di diesta. È naturale. La legge è tutta per iguale, di creto, saccio e di cretale. Correggo ben quel che sta male, intendo tutta e so che vale. La dialettica. Geometria e aritmetrica, retorica saccio e non m'impedica, grammatica e musica, non maretica, ben faria sermone predica in ogni parte, maestro so de tutte l'arte, cui ne volesse scriver carte trattarvi sapria di Marte, di altre pianete che son parte... Ne firmamenti! Dire vi sapria di venti, e come stanno gli alimenti, troni, cumbaleni, repenti, e donde venno li tormenti? Intorno mare. E cui la terra fa tremare, e so invisibilmente andare, ben me so trasfigurare, e guerra saccio ben menare, quando mi piace. Tanto so pien di ragione, chi conosco le persone, tutte le rie dalle buone, di femmine più che Salomone. E d'esto mondo? Ben so perché fu ritondo, e ben so cui sosten lo fondo, e l'andel ferma tutto il pondo. A tutte cose ben rispondo. Perch'io le saccio. Gli diavoli prendo a laccio, so far malie e sì le disfaccio. Per nigromanzia li caccio, i demoni molto piaccio. Quando il vo fare? Ancora vi sapria insegnare, le province nominare, e l'acque che entrano in lo mare, perché le lingue in suo parlare fonno divise. Perché pianse uom pria che rise, perché Caino Abel uccise, e cui l'errore in prima mise, come Ispagna si conquise. Pei paladini? Di Troia so la destruzione che si perdeo per tradigione, e com l'imperio per tencione fu in Alamagna alla stagione cuscio di Francia, perché la chiesa di Feorancia. Al mio amico so far mancia, per ragione a giusto bilancia, e so ben dove andò la lancia. E lo gradale? Di Merlin sapria trattare, quando fece bene e male, com nacque Artuso al temporale. La mia materia è cutale. Che senno abbonda? So della tavola ritonda, Tristano ed Isotta la bionda, e come l'uom tutto si monda, e che il peccato non confonda, devo andare. Doni donzelli cardati, che doni donzelli cardati, che della vera stason, venite la danza malati, parlo de vit vera son, di doni che so innamorati, non ne so guardar cason, poi che lo tempo se pone, le larme solace le porte, si via gran dono, si stese in casa le cose, si stese in casa le cose. Salva lo vescovo senato, lo miglior cunque sia nato, ora fu e sagrato, tutta l'umma il cericato, né fi sola conecato non fu e si ringraziato, e il papa allato per suo drudo più privato, suo gentile vescovato bene cresciuto e migliorato, l'apostolico romano, lo laterano, San Benedetto e San Germano, il destinò ed esser sovrano de tutto regno cristiano, però e venne da lor mano del paradis deliziano. Sa non fue questo villano, da ce mondo fue pagano, non ci so tal marchisciano. Se mi dà caval balsano, mosterolle al buon Galgano, allo vescovo Volterrano, cui bendicente bacio mano. Forte la bella, bella caiba, fuggelo di signor! Plangelo fantino, però che non trova l'uso ausilino nella gaiba nova, e dise cun dolo. Chi gli avrì l'usolo? E dise cun dolo. Chi gli avrì l'usolo? E in un buscheto se mise ad andare, sentì lo seleto si dolse cantare. Oi bellisignolo, torna nel mio broilo. Oi bellisignolo, torna nel mio broilo. Umile sono ed orgoglioso, prode, vile e coraggioso, franco e sicuro e pauroso, e sono folle e saggio, e dolente e allegro e gioioso, largo e scarso e dubitoso, cortese e villano e odioso, facciomi pro e danaggio. E diraggiovi, buona gente, come male bene agio più di null'uomo. povero e ricco e disasciato sono, e fermo e malato, giovane e vecchio e aggravato, e sano spessamente. Merce faccio e peccato, ch'io favello e non sono nato, sono disciolto e legato, lo core e la mente. Ora intendete di ciò la ragione? Giorno e notte sto in pensazione. Legato sono. Non può sfuggire in nulla parte al mio disire. Son disciolto per servire tuttor, se mi valesse. Vecchio sono per ubbidire quella che mi fa morire. Giovane al buono per dire, se Madonna volesse. E fo peccato per lei che m'ascondo, e mercè che di malfare m'ascondo. Ruggeri a pugliesi conti, Dio, convive a forti convive punti. A forti cavalieri punti, e marchesi e conti, lo dicono in ogni parte, che mali e beni a lui son giunti. Questo mondo è valli e monti, Madonna li sembianti Madonna a conti, lo corma una e parte. Lo corma una e parte. E l'avventura sempre scende e sale, tosto avviene all'uomo bene e male. E la mia donna gioiosa vidi con le altre danzare. Vidi la con alleganza la sovrana delle vele, che di soi menava danza de maritate e polcelle. Calde presi, gran baldanza, tutt'or danzando con elle, ben resembla qui castelle lo suo viso a riguardare. Danzando la fresca rosa ha preso fu del suo pendore, date fresca e amorosa tra le altre da splendore. Danzando la fresca rosa ha preso fu del suo pendore, fresca e amorosa, care altre da splendore, danzando la fresca rosa, preso fu del suo bellore, tanto fresca e amorosa, care altre da splendore. Rosa fresca o lentissima, capari inver la state, le donne ti disiano, pulzelle maritate, tragemi d'este focora, se teste a volontate, per te non hai avento notte e dia. Pensando pur di voi, Madonna mia. Se di meve travagliti, follia lo ti fa fare. Lo mar potresti a rompere, a venti a seminare, l'avere d'esto secolo tutto quanto a sembrare, avere me non poteri a sto monno. Avanti li cavelli, maritonno. Se li cavelli artonniti, avanti fossi morto. Canissi sì mi perdera lo solaccio e il diporto. Quando ci passo e veioti, rosa fresca dell'orto, buono conforto donomi tuttore. Poniamo che s'aiunga il nostro amore. Che il nostro amore aiunga, si non voglio ma talenti. Se ci ti trova paremo con gli altri miei parenti, guarda non t'aringolgano questi forti correnti. Come ti seppe buona la venuta, consiglio che ti guardi alla partuta. Molte sono le femmine c'hanno dura la testa, e l'uomo con parabole la dimina e ammonesta. Tanto intorno procazzala finché la in sua podesta. Femmina d'omo non si può tenere, guardati bella pur de ripentere. Che une pur ripentesse me, davanti fossi uccisa, ca nulla buona femmina per me fosse ripresa. Arsera passastici, correndo alla distesa. Acquistati, riposa, canzoneri, le tue parole a me non piaccion gueri. Quanto sono le schiantora che m'amise allo core, e solo pur pensanno me la dia quando vo fore. Femmina d'esto secolo tanto non amai ancora, quant'amo te, verosa invidiata, ben credo che mi fosti destinata. Si destinata fossi ti, caderia delle altezze, che male messe forano in te le mie bellezze. Se tutto divenissi mi tagliaremi le trezze, e con sore marenno a una magione, avanti che martocchin la persone. Se tu con sore arenneti, donna col viso cleri, allo mostero venoci e rennomi con fleri, per tanta prova vencerti faralo volonteri. Con te costau la sera e lo maitino, bisogna ch'io ti tenga al mio dimino. Oimè, tapina misera, com'aureo destinato. Gesù Cristo l'Altissimo del tutto me ha irato. Concepistimi ad abbattere un uomo blestiemato. Cerca la terra che ste grande assai, chiù bella donna di me troverai. Cercata io Calabria, Toscana e Lombardia, Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa e Soria, La Magna e Babilonia e tutta Barberia. Donna non ci trovai tanto cortese, perché sovrana di me ve te prese. Poi tanto travagliastiti, facciati meo pregheri, che tu vada domani a mia Maria Monperi, se dare mi ti degnano, menami a Romosteri e sposami davanti dalla gente, e poi farò le tue comandamente. Di ciò che dici, vita, ma né niente non ti vale, cade le tue parabole, fattono ponti e scale, penne pensasti mettere, sonti cadute l'ale e dato taglio la volta sottana, dunque se potti, teniti villana. In paura non mettermi di nullo manganiello, istomine stragloria desto forte castello, prezzo le tue parabole meno che d'un zitello, se tu non levi e vattene di quaci, se tu ci fossi morto, ben mi chiaci. Deo lo volesse, vita, ma te fosse morto in casa. L'arma nanderia consola, che di e notte pantasa. La gente te chiamarano, o periura malvasa, che ha morto l'uomo in casa t'ha traita. Sanza ogni colpo, levimi la vita. Se tu non levi evatine con la maledizione, li frati miei ti trovano dentro chissà magione. Bello mi soffero, perdici la persona che a meve s'è venuto a sormonare. Parente né d'amico, non t'aitare. A meve non aitano amici né parenti. I strani mi so, cara, ma in fresta buona gente. Or fa un anno, vita, ma che entrata mi sa in mente. Di canno ti vististi lo m'aiuto. Bella, da quello giorno so feruto. Di tanno innamorastiti, tu Iuda lo tradito. Come se fosse porpora e scarlato sciamito. Sa l'Evangele, iurimi, che mi sia marito. Avere me non potere sto mondo. Avanti, in mare ittomi al perfondo. Se tu nel mare gittiti, donna cortese e fina, de retro mi ti misera per tutta la marina. E da poi cannegasseti, trovarati all'arena solo per questa cosa d'impretare. Con teco m'aio aggiungere a peccare. Segnomi in padre, in figlio e in santo Matteo. So che non sei tu retico, figlio di Giudeo, e cotale parabole non udì dire anch'eo. Morta si è la femmina, l'on tutto perdici lo saboro e lo distotto. Bene lo saccio, cara, ma altro non posso fare. Se qui sono narcomplimi, lassone lo cantare. Fallo, mia donna, plazzati, che bene lo puoi fare. Ancora tu non m'ami, molto t'amo. Sì, mai preso come lo pesce all'amo. Sazzo che m'ami e amoti di core paladino. Levati, suso, e vattene, tornaci allo mattino. Se ciò che dico facemi, di buon cor t'amo e fino. Chisso t'ad imprometto senza faglia, te la mia fede che mai in tua baglia. Perciò che dici, carama, né niente non mi muovo. Inanti prenni e scannami, togli sto cortel nuovo. E sto fatto far potesi inanti scalfi un uovo. Arcompli mi talento, amica bella, che l'arma colo core mi s'infella. Ben sazzo, l'arma doleti com'omo che avversura, e sto fatto non potesi per null'altra misura, se non all'Evangelie che mo ti dico, iura, avere me non puoi in tua podesta. Inanti prenni e tagliami la testa. L'Evangelie, cara, ma ch'io le porto in seno. Allo mostero presile, non c'era lo patrino. Sopresto libro, giuroti, mai non ti vegno meno. Arcomplimi talento, in caritate, che l'arma me ne sta in sottilitate. Meo sire, poi giurastimi, e ho tutta quanta incenno. Solo alla tua presenza da voi non mi difenno. Se ho mi nespreso, aio ti merzè, a voi m'arrenno. Allo letto ne gimo alla buon'ora, che chissà cosa n'è data in ventura. Danzando la fresca rosa preso fu de so bell'ore, tant'è fresca e amorosa ca le altre da splendore. Il nome par che il sia Luitano, tanto me e il suo amor prusimano. Io sto in la zambra, plango e pluro, per tema che il non sia sicuro, che d'altro mai non hai paura, e la speranza ma sicura che il deve venire in questo luogo. Tutto il mio pianto torna in sogo e i miei sospiri ven in canto, membrandomi del ben cotanto. Veder mia fasa e omai no quero e in spleco che il no fa mestero, che non hai cura d'esser bella. Io men sto sola in camarela e antalura e me la sala. No hai que farzo della scala, né a balcon, né a finestra, che troppo me luitan la festa che più desiro a celebrare. E io guardo in sa, de verso il mare, si prego Deo che guarda sia del me signore in pagania e fassa sì che il mario meo, allegro e san, s'entorne indreo e done vencia ai cristiani, che tutti veni allegri e sani. Ela li sta col viso claro quan li favela. Mai de raro iave in quella ricca ventura che le si alta per natura, che quando ele è da lei appresso de dir parole sta confesso e sta contento en lo guardare. Altro noi a olsa demandare. Querir mercè, mercè querire, mille fiae e plu ancora, se li bastasse tempo e ora. E chi credivu che la sia? Ballo della venente, ne pignormo ella e io. Dissili cortesemente, dona, vostrelo cormeo, ella rispose immantenente. Tal servente ben voglieo, in so vivirà il cormeo. Sì, rispose de Bonaire. Oh, gemma laziosa, adorna villanella, che sei più vertudiosa che non se ne favella. Per la vertute che hai, per grazia del Signore, aiutami, che sai che io son tuo servo, amore. Assai son gemme in terra, in fiume, in mare, che hanno vertute in guerra e fanno altrui allegrare. Amico, io non sono essa di quelle tre nessuna. Altrove va per essa e cerca altra persona. Madonna, troppo è grave la vostra risponsione. Cad'io non aggio nave, né non son Maragone che io sappia andar cercando colà ove mi dite. Per voi perisco amando se non mi soccorrete. Se perir ti dovessi per questo cercamento, non crederia che avessi in te l'amoramento. Ma tu credi morire, innanzi che esca l'anno per te fomme servire, come altre donne fanno. Oh, villanella adorna, fa sì che io non perisca, che l'ho morto non torna per far poi cantar messa. Di voi mi dà conforto, Madonna, non tardare. Quando di ch'io sia morto, non farmi essa cantare. Se morire non ti credi, molta è folle credenza, se quanto in terra vedi trapassi per sentenza. Ma tu se Dio terreni, non ti posso scampare. Guarda che legge tieni, se non credi all'altare. Per l'altare mi richiamo, cadora i cristiani, però mercè vi chiamo. Poi sono in vostre mani. Prego in cortesia che maitate per Dio, perché io la vita mia da voi conosca infio. Si sa chiede mercede con umiltà piagente. Giovar beti la fede sia amicoralmente. A mi tanto predicate si saputo dire ch'io mi sono accordata. Dimmi che t'è in piacere. Madonna, a me non piace castella né monete. Fatemi far la pace con quel che vi sapete. Questo adimando a voi e faccio ve finita. Donna siete di lui ed egli è la mia vita. Abbiamo trasmesso la prima parte di «E l'avventura sempre scende e sale, tosto avviene all'uomo bene e male». Scene e momenti dello spettacolo giullaresco nell'Italia del 2300. Riprendiamo con i professori Doglio e Battisti il nostro breve discorso intorno ai testi che abbiamo ascoltato e che ascolteremo fra poco nella seconda parte del nostro spettacolo. Professor Doglio, come è giunto fino a noi questo repertorio? Sono giunti fortunosamente fino a noi, sono giunti alcuni, per esempio, stranamente, in modo molto curioso e divertente per quanto ci riguarda come lettori, sono giunti attraverso le carte dei notai bolognesi, ovvero sia i notai bolognesi, che erano degli uomini vivi, vivaci evidentemente, che avevano degli interessi di partecipazione alla vita sociale, erano anche degli ascoltatori, quindi della vita pubblica, e quindi partecipavano a quelle kermesse che si facevano nelle piazze bolognesi e che erano spesso appunto caratterizzate dalla presenza di questi giullari, di questi cantastorie. Ebbene, alcuni di questi notai, forse quando erano giovani, forse anche in età matura, hanno ricordato questi testi, li hanno trascritti addirittura sulle pagine di certi contratti, per annullare pagine fra un contratto e l'altro degli atti pubblici, invece di tirare una riga come facciamo noi o come si usa oggi, hanno riempito quella pagina di testi giullareschi, che sono preziosissimi perché sono fra i pochi che sono stati trascritti, diciamo, da testimoni oculari. Altri sono giunti perché qualcuno di questi giullari evidentemente ha avuto la capacità di scrivere quello che lui recitava, appunto sappiamo che si trattava di una cultura orale, quindi la trascrizione scritta è un'eccezione. Moltissime cose sono andate perdute e alcuni di questi autori, come Ruggeri Apuliese, fortunatamente ci hanno lasciato grandi frammenti, ampi frammenti delle proprie composizioni. Professor Battisti, la cultura dei giullari è di origine latina o piuttosto franco-germanica, come affermano alcuni studiosi? No, è una combinazione di moltissimi elementi. E certamente, e anche se abbiamo una testimonianza molto scarsa, in parte deriva dalla tradizione del mimo tardo antico. E anzi, ci sono dei testi impressionanti che dimostrano come questi mimi si travestissero, fossero quasi dei ventriloqui, parlassero con varie fogge e praticamente facessero anche delle danze imitative. Abbiamo poi ancora un'altra tradizione, che è probabilmente anche questa antica, quella delle musiche eseguite per balletti o per danze figurate, che consentivano ad un cantore di raccontare una storia ed altri di interpretarla. Poi c'è fortissima tutta l'influenza del mondo arabo. Devo dire che l'impressione più forte è quella di una pensazione dal vicino Oriente antico. E direi che tutta questa enorme ricchezza è quello che dà alla giullaria questa sorprendente qualità di aggressività. Però per intenderla bisogna non soltanto utilizzare i testi scritti, bisogna utilizzare le musiche, che sono numerosissime, combinare il più possibile quindi musica e testo letterario. Qual è stato il contributo dei giullari alla formazione della drammaturgia e della lingua italiana, professor Doglio? È certamente un contributo notevole, perché questi giullari, che appunto avevano questa molteplicità di culture e questa molteplicità di ambiti di riferimento, fra le corti feudali, a quelle già delle signorie, dei principati a cui alludeva il professor Brezzi, all'ambiente stesso ecclesiastico che era sempre disponibile nonostante le condanne folgorate dall'alto della chiesa docente, le chiese locali erano ospitalissime nei confronti di questi vagabondi, artisti. Ebbene, la molteplicità di queste culture, di questi imprestiti, di queste commistioni fa sì che essi avessero una possibilità di portare al pubblico più basso, al pubblico delle piazze, al pubblico dei mercati, al pubblico delle fiere, delle strade, un messaggio che era l'unico che queste persone in sostanza ricevessero, oltre a quello ecclesiastico che spesso era difficilmente comprensibile, soprattutto nell'ambito del rito che era latino. Ebbene, insieme al Sermo Rusticus, cioè alla predicazione che poi venne appunto sempre più a diffondersi nelle chiese cattoliche dell'Europa e dell'Italia, anche questa della giulleria è stata la comunicazione di poesia, di metafore, di termini della lingua, di parabole figurate, una quantità di fatti, di temi e di valori anche veicolati da questi comunicatori di massa, come li dico io, perché sono delle persone che giravano in mezzo alla gente, che erano coloro che trasmettevano in modo piano anche agli analfabeti un intero patrimonio, e che era l'unico patrimonio che potesse giungere fino a loro. E l'avventura sempre scende e sale, tosto avviene all'uomo bene e male. Scene e momenti dello spettacolo giullaresco nell'Italia del 2300. Seconda parte. Doni, donzelli, alzati, demi alcuna pietanza. Andati, che non pregati, che pensa di dire la danza. Certe, se questo non frate, morai, ve lo dico in certanza. Fariti, grande allegranza, se la venate con lui, e se il vitazzo blu bui, doni che siano delitosi. Mamma, lo tempo è venuto che me vorria maritare d'un fante che me si blasuto, non te potria contare, tanto me blase il suo fatto, li suoi portamenti e i semblanti che ben te lo dico intrasatto, sempre vorria aver davanti il drudo meo ad onne pacto, del mio amor voi che se vanti. Madre, lo corte se sclanti, tu me lo vuoi contrariare. Io te il contrario in presente, figliola mia maledetta, de prender marito e in presenti troppo me parca e di fretta. Amico non hai né parente che voglia, tant'è il piccoletta, tanto me par garzonetta, non è da cotai fatti fare. Madre, de fleve in natura te ven che me vai sconfortando de quello che io son più segura, non fo operar venolando, né cavalier senza paura, né lo buon dux morando. Madre, il tuo dirsi è in bando che o pur me vuoi maritare. Figlia, lo corte traporta, né la persona non hai. Tosto potresti esser morta s'usassi con non, ben lo sai. Or figlia, per Deo, sia corta, né notegli a mettersa mai. Cara ventura che sai, morte in potresti portare. Madre, tanto al cor assunto la voglia amorosa e conquisa, ch'aver voria lo meo drudo visin, più che non è la camisa. Con lui me staria tutta nuda, né mai non vorria far divisa. Eo la braseria in tal guisa che il cor me faria allegrare. Si disveglia se che tu sai. Babbo mio dolce, con tu mal fai, che Dio son grande, marito non mi dai. Mal fa tu, babbo, che non mi mariti, che Dio son grande e son mostrata a dite. Beh, mai tenuta con tregua sai, fal per te ora, stul di farsa mai. Figliola mia, non ti far meraviglia se ho t'ho tenuta cotanto in famiglia. Con d'alto fatto ancor non trovai, calsperte Deo, trovarò logi mai. E mi si forte cresciuta la voglia d'andare attorno, che o me moro di doglia. Babbo mio dolce, fa con tu sai, che il mio cor tristo rallegri oggi mai. Abbi che si almanna di che m'ha fatto amica, che non me sa sola sar, sempre serò trista. Che son sovenita e bella, e d'amor me sovene, questo tristo non me fa quel che se convene. Trovato intendimento che il mio cuore disidra, che me fa solasso d'amor, ed altro non ha cura. E conforto ciascun uomo che muglier vuol prender, che la diga sola sa, trar al roba glete. E se questo io fa, o di che io incontra, che è fatto sconna clavele, e t'altri una gran colpa. Madonna, per lo tuo onore, a nulla vecchia non credere, che le guerriano l'amore, per altri loro non credere. Le vecchie son mala gente, non ti lasciar dismagare. Che il nostro amor fino a gente per lor non possa falsare. Mettale Dio in fuoco ardente. Sicuramente venga la nostra danza, chi è fedel d'amore servente e dagli cuore speranza. Venga la nostra danza sicuramente, e da donne e donzelle ponete mente. Qual plume piace, prenda per sua intendanza. Buona gente, udite e tentenditi la vita che fa questa mia cognata, la vita che la fa, voi lo dirite, e se vi piace voi la ve contare. A lato se ne ten 7 gallette, pur del miglior per poter ben soncare. E tuttora dice che morte siete. E in sin calato non se può accostare, né vin né acqua non la può saziare, se la non può la bocca la stagnata. Per Deo visine mio, non credite a quel che dice questa falsa rea. L'altrier che io la trovai tra le parite ed io la salutai in cortesia, assai li dissi: donna, che facite? Ed ella mi rispose: villania, ma sa so ben l'opera che fa sia, non ve direi che io ne seria blasmata. Poi so saputa chi te conoscesse sapesse come ho solo tuo affare. L'altrieri, per cason de far dir messe, al prete me volisti ruffianare, ma non ti fu stuarsa che il facesse o che io con teco mai volesse usare. Da mite parti e non me favellare, che io non voglio esser mai de tua brigata. Or Deo ne lodo che io son conoscuta, né non fo con tu puta al tuo marito calotta per aver soi compluta, che tu hai preso d'averle imbossito, e toi me lascia trista, deceduta, che tutta gente lo fai mostrare a dito, e delle corna l'hai si ben fornito, ch'una galea ne sarebbe armata. Cognata, io te dirò buona ragione. Se la credenza tu me vuoi tenere, io ha giocotto un sì grosso capone che lo buglione sarebbe bon da bere al tuo marito il mio degna passione, che insieme non ne lascian ben avere, gli hanno doglia e faremci morire appena età dolore onne fiata. Cognata mia, so che Deo t'ho dito e sa so ben che delle maladire, ma me ne roto in casa un fanteletto, a lui daremo ben mangiare e bere, e tu recherai del tuo vin bruschetto e recherò del mio pleno un barile. Quando gli avrem da ben mangiare e bere, ciascuna fassa la sua cavalcata. Plange lo fantino, però che non trova lo so osilino nella gaiba nova, e dice con dolo: chi gli avrì l'usolo? E dice con dolo: chi gli avrì l'usolo? Venite voi cieli amorosi, Madonna, venite alla danza, mostrate la vostra allegranza, sì conclusi e zagliosi. E non lo ben sperare che sono mie forti, la testa fa scaldare. Cerno sen le comadri entrambe ad una massone, cercon del vin sedile se l'era de sasone, beven 5 barili ed eran de sune, ed un quartier de retro per bocca savorare. De questa motesella più non ne vendiamo, mettiamo la canella, per noi non viviamo. E toi, comadre bella, e sai della gonnella, facciamo campanella che il mette in gran pisare. Comenzate a pixare la buona bevedrise, ella descalzà l'albore tra qui e le raise. Disse l'altra comadre: per Deo, quel muso stagna che fa tai da lavagna, potrisi navegare. E leggerno alla stuva per gran delicamento, e fe lor parimento che il corpo avean vento. Porton 7 caponi e tove ben 200, ed un capun lardato per bocca savorare. Una nave, comadre, ne vine giunta al porto, e un'altra de lino, lo marinar sia morto. Vivian, comadre, emplemon ben lo corpo, e la barca de olino vada in fonde mare. Cerno sen le comadre, trambe due alla festa, degli occhi e della sagne se fen 7 menestra. E disse l'una all'altra: non fosse altra tempesta che io non volesse tessere, mai ordir né filare. Venite bolzella a balare, facendo la rota venir, la zent pariti alle grali, mostrati lo vostro savio. Gli avrì l'usolo. o signori, se o favello, lo vostro audire compello. De questa vita interpello e dell'altra bene spello. Poi che in alto, men castello, ad altri via renuvello, e me vencendo e flagello. Ed arde la candela, se ve libera, ed altri mostra via delibera. Ergo ponete vammente la scrittura come sente. Callasse mosse d'oriente un umagno vir prudente. Ioso, non te paira despectuso, ca multo fora cole iusu tia favellare ad uso. Odi e mai plu non andare, ca te voglio multo addemandare. Servire se me dingi comandare. Certe credotello, frate, ca tutte in veritate. Una causa medicate, dissa vostra dignitate. Poiché in tale desdutto state, quale vita voi menate? Che vidande manicate? Avete vidande cusci amorose come queste nostre saporose? Ehi, parola dissensata, quanto male fui trovata, o bevellina inicata, tia vidanda scelerata, o belai assimilata. Vidanda bemo purgata, da benizio preparata, perfetta vigna plantata, de tutto tempo fructata. E in qualecunqua causa delectamo, tutta quella vigna lo trovamo, e pur de vedere ni saziamo. E in un buschetto se mise ad andare, sentì lo seleto si dolse cantare. Oi bellisignolo, torna nel mio broilo. Oi bellisignolo, torna nel mio broilo. Sì come altruomini vanno, chi per prode, chi per danno, per lo mondo tuttavia, così m'andava l'altra dia per un cammino trastullando, e d'un mio amor già pensando, ed andava a capochino. Allora uscio fuor del cammino, ed entrai in uno sentieri, ed incontrai due cavalieri della corte del re Artù, che mi dissero: chi sei tu? E io risposi in salutare: quello ch'io sono ben mi si pare, io sono un gatto lupesco che a Catuno vo dando un esco, chi non mi dice veritate. Però saper voglio ove andate, e voglio sapere onde siete e di qual parte venite. Quelli mi dissero: ora intendete, e vi diremo ciò che volete, ove gingo e donde siamo, e vi diremo onde veniamo. Cavalieri siamo di Bretagna, che veniamo della montagna che l'uomo appella Mongivello. Assai siamo stati all'ostello per apparare e invenire la veritate di nostro sire, lo re Artù che avremo perduto e non sapevo che sia venuto. Or ne torniamo in nostra terra, nello reame d'Inghilterra. Addio siete voi, ser gatto, voi con tutto il vostro fatto. E io risposi allora in suno: addio vi comando ciascheduno. Così da me si dipartiro i cavalieri quando ne giro. E io andai pur oltre adesso per lo sentiero ondi era messo, e tutto il giorno non finai, infine alla sera, ch'io albergai con un romito nel gran diserto, lungi ben 30 miglia certo, ed al mattino mi ne partio, si accomandai lo romito a Dio. Ed anzi ch'io mi ne partisse, lo romito sì mi disse verso qual parte io andasse, veritade non li celasse. E io gli dissi: beh, mi piace, non te ne serò fallace, ch'io non ti dica tutto il dritto. Io me ne vo in terra d'Egitto, e voi cercare Saracinia, e tutta terra pagania, e arabici, ebraici e tedeschi, e il soldano e Saladino, e il veglio e tutto suo dimino, e terra Vivensium, e Bellem, e Montuliveto, e Gersalem, e l'ammiraglio, e il Massamuto, e l'uomo per cui Cristo è attenduto dall'ora in qua che fu epigliato e nella croce inchiavellato dagli giudei, che il giano frustando come al ladrone battendo e dando. Allora quell'uomo li pose mente e sì gli disse pietosamente: va tosto, che non ti dean sì spesso. E Cristo si rivolse adesso, sì gli disse: io anderò e tu m'aspetta ch'io tornerò. E poi fu emesso in sulla croce a grido di popolo e da voce. Allora tremò tutta la terra. Così ci guardi Dio di guerra. A questa mi dipartio andando e dal rumito accomiatando a cui dicea lo mio viaggio ed uscio fuor del rumitaggio per un sportello c'avea la porta pensando trovare la mia scorta ond'io andasse sicuramente. Allora guardai e posi mente e non vidi via né una. L'aria era molto scura, il tempo nero e tenebroso, e io, com'uom pauroso, ritornai ver lo romito da cui mi era già partito, ed una voce l'appellai. Sì, li dissi io, per Dio, se tu sai lo cammino, or lo mi insegna, ch'io non so ed on Dio mi tegna. Quelli allora mi guardò e con la mano mi mostrò una croce nel...